Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono ormai quasi affezionato di tutte le volte che vengo a Napoli. Se dovessi dire con una battuta, ho delle contestazioni molto veementi e quindi dico che ormai ci sono affezionato, però se qualcuno pensa che io, visto il comitato d'accoglienza, non torni a Napoli, credo che ci fermerò una volta al mese a questo punto, se questo è il messaggio. Non si capisce se sia una minaccia o cosa questa di Renzi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Comunque oggi è stata una giornata molto intensa per lui a Napoli, era lì per la cosiddetta cabina di regia per Bagnoli, cioè per questo vertice, per decidere in prefettura come si procederà per la bonifica attesa da decenni per l'area di Bagnoli, dove c'era l'ex Italsider, e ci sono stati cortei di manifestazioni di protesta nei suoi confronti, lacrimogeni, diversi poliziotti feriti. Insomma, poi ne parleremo della cronaca, e diciamo che è un momento particolare questo per Renzi. Faremo anche così un'analisi politica più tardi. E a proposito di polemiche, c'è anche una nuova polemica che riguarda la puntata di questa sera di Porta a Porta, perché Bruno Vespa ha annunciato che intervisterà, dovrebbe essere già registrata in realtà, il figlio di Totò Riina, del boss mafioso Totò Riina, Salvo, che ha scritto un libro, e c'è stata una bufera sulla RAI per questo. PD, Movimento 5 Stelle hanno protestato, la presidente della commissione antimafia parlamentare Rosi Bindi ha detto questo è negazionismo della mafia, di Cosa Nostra, il presidente del Senato Grasso ha detto non lo guarderò, Bersani, che era invitato alla trasmissione, ha detto non ci vado, ha deciso di non andarci. La RAI in realtà difende Bruno Vespa. Mi piacerebbe sapere da voi qual è il vostro parere. Vespa dice non vedo perché non dovrei fare questa intervista, per combattere la mafia bisogna conoscerla e quindi questa intervista può servire. Secondo voi, lo sapete che ci sono sempre due canali per i vostri interventi qui in diretta a Effetto Notte, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure gli sms e WhatsApp a questo numero che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Secondo voi può servire effettivamente una intervista al figlio di Riina per conoscere meglio, essere più consapevoli di quella che è la mafia e quindi combatterla, oppure non è una scelta opportuna per il servizio pubblico? C'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, vi dicevo. Poi ci occuperemo anche degli sviluppi dell'inchiesta sul petrolio, altro diciamo gatta da pelare del governo Renzi. Domani l'ex ministra Guidi sarà ascoltata dai magistrati come persona informata dei fatti, lei si dice tranquilla, qualcuno dice ma potrebbe uscire da lì forse anche come indagata, insomma si saprà soltanto domani, e ne parleremo qui, vi dicevo, Effetto Notte. Come sempre, prima di tutto un riassunto delle notizie più importanti della giornata. Bagnoli, Renzi a Napoli per la cabina di regia, De Magistris non va, scontri e feriti al corteo di proteste contro il Presidente del Consiglio che assicura bonifica in 36 mesi con 272 milioni di euro. Vespa intervista il figlio di Riina, bufera sulla RAI, azienda col conduttore, Bindi accusa il negazionismo di Cosa Nostra, Bersani non va a Porta a Porta. L'omicidio di Giulio Regeni, la delegazione di inquirenti egiziani che domani incontrerà quelli italiani è arrivata in serata a Roma. L'inchiesta sul petrolio, domani Federica Guidi sarà ascoltata dai magistrati, le mozioni di sfiducia al governo saranno discusse e votate in aula martedì 19 aprile. Terrorismo, allarme di Frontex, record di clandestini alle frontiere, si scopre che uno dei due terroristi degli attentati di Bruxelles ha lavorato per due mesi al Parlamento europeo. La denuncia di Cantone, la corruzione dice colpisce un ASL su tre, costa 6 miliardi l'anno. Panama Papers, lo scandalo, la polizia svizzera nella sede dell'UEFA avevano scelto i nomi dei film di James Bond, i vari che si erano nascosti dietro questi paradisi fiscali, conti offshore, banche, via libera del Senato, il decreto è legge. Sisma dell'Aquila, per il 7° anniversario la Camera osserva un minuto di silenzio. Francia passa la legge contro i clienti delle prostitute, multe sino a 3.500 euro. Partiamo quindi dalla giornata di Matteo Renzi, vi dicevo, a Napoli per seguire la cabina di regia per la bonifica attesa da decenni dell'area di Bagnoli, dove c'era fino all'inizio degli anni 90 l'Italsider. Ci sono state manifestazioni di protesta contro Renzi, 11 poliziotti sono rimasti contusi e il sindaco De Magistris si è rifiutato di essere presente a questa cabina di regia in disaccordo con il commissariamento deciso da Renzi. Ma capiamo come si è sviluppato, diciamo, questo dissidio, queste tensioni tra Renzi e De Magistris. Napoli, area occidentale della città. Sul mare della Baia di Pozzuoli si affaccia l'insenatura di Bagnoli. collocata alle pendici della collina di Posillipo, con le lunghe spiagge di Coroglio e La Pietra, che si estendono lungo lo specchio d'acqua e sullo sfondo l'isola di Nisida e di Ischia. Nel video di Altri Mondi News, la ricostruzione della storia di quel pezzo di mare tra i più belli al mondo, dove sorse l'Ital Cider per il rilancio dell'intero Mezzogiorno. 81 anni di attività nel 1992, la chiusura e l'inizio di un dibattito sulla bonifica dell'area ancora oggi in corso. Dibattito che passa dal piano regolatore comunale delle amministrazioni PD alla società Bagnoli Futura, fallita nel maggio 2014. Si riparte il 14 agosto di 2 anni. Fa. Il premier Renzi firma un patto per Bagnoli in piena concordia con il sindaco De Magistris. Pochi giorni dopo, però, il premier annuncia il commissariamento della zona nell'ambito del decreto Sblocca Italia. Comitati di quartieri, associazioni, cittadini scendono in piazza, vogliono partecipare alla bonifica, non vogliono ordini dall'alto. Il comune si schiera con loro ufficialmente il 2 dicembre, quando l'area viene posta sotto sequestro. Tradito il patto di agosto, annuncia De Magistris. È l'inizio dell'allontanamento progressivo tra il primo cittadino ed il premier, seguito da una guerra di ricorsi e da un confronto verbale sempre più aspro. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Renzi ha assicurato che la bonifica si farà in 36 mesi, finirà nel 2019, e che per farlo, per restituire, dice Bagnoli, ai napoletani, verranno stanziati 272 milioni di euro. La stima del costo delle bonifiche: 162 milioni i terreni, 48 il litorale, 59 il mare, per un totale di 272 milioni di euro. La procedura sarà trasparente, verificabile costantemente su tutti gli strumenti di comunicazione, telematica e non. La procedura di gara sarà gara europea e la parola chiave è trasparenza. Poi vi dicevo, tra poco torniamo sia sugli aspetti della cronaca sia su quelli politici. Per quanto riguarda invece l'inchiesta sul petrolio che ha portato alle dimissioni, sapete ormai, dell'ex ministra Guidi, la stessa ex ministra sarà ascoltata domani dai magistrati come persona informata dei fatti. Intanto è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo del Senato che le mozioni di sfiducia nei confronti del governo Renzi saranno votate in aula martedì 19 aprile. E la polemica, vi dicevo, Vespa ha annunciato che intervista questa sera Porta a Porta il figlio del boss mafioso Totò Riina, si chiama Salvo, e ha scritto un libro. L'azienda, la RAI, si è schierata con Vespa, però ci sono proteste del Movimento 5 Stelle, del PD. Vi dicevo che la presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi, ha detto: questo è negazionismo di Cosa Nostra. Bersani ha respinto al mittente l'invito a partecipare questa sera Porta a Porta, e il presidente del Senato Grasso ha detto: io non lo guarderò. Cosa ne pensate? È una scelta opportuna? È giusto che il servizio pubblico prenda una decisione di questo tipo? Oppure, come dice Vespa, serve per conoscere meglio la mafia? Oppure è una scelta inopportuna? 349-238-6666, numero per i messaggi o per i WhatsApp, e poi la pagina Facebook di Fettonotte, dove vedo già moltissimi messaggi, poi li leggeremo. Intanto, il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Roberto Fico, ha proposto di adottare un atto di indirizzo sugli ospiti in trasmissione come Porta a Porta, e sul caso verrà convocato in vigilanza il direttore di Rai 1, Andrea Fabiano. Questa è notizia di poco fa. L'omicidio di Giulio Regeni è a Roma. La delegazione di inquirenti e polizia egiziana di alto livello che incontrerà domani gli inquirenti e investigatori della capitale nell'ambito della collaborazione per far luce, si spera, sulla morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo in circostanze ancora decisamente da chiarire. Terrorismo, allarme dell'agenzia europea Frontex, che dice record di clandestini alle frontiere. Si scopre tra l'altro che uno dei terroristi degli attentati di Bruxelles, uno di quelli che si è fatto esplodere nell'aeroporto, ha lavorato per 2 mesi al Parlamento europeo, uno nell'estate del 2009, uno in quella del 2010, impiegato da una società esterna nei lavori di pulizia con un contratto per studenti. Lo scandalo Panama Papers, film di James Bond, avrebbero utilizzato i nomi dei film di James Bond per i conti offshore della Panama Papers, i vari, insomma, che si sono nascosti dietro questi soldi portati all'estero nei paradisi fiscali, in questo caso Panama. Si tinge di giallo sempre di più questa vicenda, e al di là delle curiosità, intanto oggi la polizia svizzera nel pomeriggio ha perquisito la sede della UEFA. Sarebbero stati prelevati documenti riguardanti un contratto sui diritti televisivi per la trasmissione della Champions League, e in Italia anche la Procura di Roma, dopo quella di Torino e di Milano, intenderebbe muoversi in questo senso. Banche, via libera del Senato alla fiducia scusate, sul decreto banche che contiene la riforma delle banche di credito cooperativo e la garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza. Il decreto incassa il via libera definitivo del Parlamento, in questo modo diventa legge. I voti favorevoli sono stati 171, i no 105, un astenuto. Sentiamo allora il ministro dell'economia Padoan oggi al Salone del Risparmio a Milano. Per la ripresa degli investimenti occorre rafforzare il sistema bancario e, come è noto, il governo ha avviato un'ampia misura di riforma su diversi livelli per rafforzare il sistema bancario. Ricordo le misure in termini di materia di governance, quale la riforma delle banche popolari, la riforma delle fondazioni bancarie e quella di banche di credito cooperativo. Si tratta, in altri termini, di misure che tendono sia a rafforzare il sistema del credito, sia a lasciare alle spalle l'eredità molto dolorosa di 3 anni di recessione profonda, a cui il sistema del credito ha peraltro resistito assai bene, anche in un contesto nel quale l'economia ha perso quasi 10 punti di PIL. E ora il ministro del lavoro Poletti, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta, sulla proposta del governo, era stato un annuncio di ieri di Renzi, un'ipotesi di estendere gli 80 euro alle pensioni minime. Sentiamo Poletti. Di qualche giorno fa il via libera ufficiale dell'INPS alla decontribuzione biennale per incrementare i contratti a tempo indeterminato. Potranno dare queste misure quella svolta che effettivamente c'è stata già nel 2015? Io penso di sì, anche perché noi abbiamo una linea molto chiara in questo senso. Noi vogliamo non solo più posti di lavoro, ma anche un miglior mercato del lavoro. Perché questo accada abbiamo bisogno di meno precarietà, e per avere meno precarietà bisogna fare in modo che il contratto a tempo indeterminato sia un contratto che costa strutturalmente e per sempre di meno. L'abbiamo fatto con la decontribuzione nell'anno passato, lo facciamo quest'anno e lo faremo in futuro. Quindi io credo che questa sia una linea scelta e gli imprenditori possono tranquillamente assumere a tempo indeterminato, perché è questo quello che noi faremo. Questo era sempre il ministro Poletti, sempre al microfono il nostro Vincenzo Miglietta, ma sugli incentivi legati invece al lavoro. Adesso parliamo invece di pensioni degli 80 euro, l'ipotesi. Questo è un tema che è presente da quando si decise il bonus degli 80 euro ai lavoratori 2 anni fa. Naturalmente questo è un tema che va affrontato all'interno della legge di stabilità, perché abbiamo una ovvia esigenza di compatibilità rispetto all'utilizzo delle risorse. Io sono naturalmente favorevole al fatto che anche le pensioni più basse abbiano un loro adeguamento, lo dovremo vedere dentro questo contesto generale di equilibrio della nostra economia e del nostro bilancio. Il terremoto dell'Aquila, 7° anniversario oggi, 6 aprile, l'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria del terremoto. Il vicepresidente Simone Baldelli ha rinnovato la solidarietà dell'Assemblea alle popolazioni che ancora continuano a subire le conseguenze di quella tragedia, ricordando il lavoro di tutti coloro i quali in questi giorni, mossi da generosità e senso civico, sono accorsi per portare aiuti, assistenza e conforto alla popolazione colpita dal sisma. Per chiudere, una notizia che arriva dalla Francia. Se ne dibatte tanto anche in Italia e non solo. L'Assemblea nazionale francese, quindi il Parlamento francese, ha adottato in via definitiva la nuova legge che prevede pesanti multe per i clienti delle prostitute. Concretamente si tratta di punire chiunque solleciti, accetti ed ottenga relazioni di natura sessuale da parte di una persona che si concede alla prostituzione, incluso in modo occasionale in cambio di una remunerazione. I clienti rischiano una multa di 1.500 euro e fino a 3.500 euro in caso di recidiva. Ora, prima di aggiornare chi sta viaggiando, volevo intanto dare un occhio a tantissimi messaggi che già stanno arrivando da parte vostra sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche WhatsApp e SMS con il 349-238-6666. A proposito della polemica di questa sera e dell'intervista di Bruno Vespa al figlio di Totò Riina, Salvo Riina, che è uscito con un libro in questi giorni, ci sarà stasera bufera sulla Rai, però Vespa dice... per combattere la mafia bisogna conoscerla, quindi servono anche interviste come queste. Rosy Bindi ha detto: questo è negazionismo di Cosa Nostra. Voi cosa ne pensate? È una scelta opportuna del servizio pubblico oppure no? Roberto dice: bel ragionamento Vespa, per combattere la prostituzione bisogna allora andare a puttane, quindi ma ci faccia il piacere, dice Roberto, visto che Vespa dice bisogna conoscere la mafia, quindi interviste a un mafioso servono, a un figlio di un mafioso. Emanuele: abbiamo le redazioni piene di ex brigatisti e terroristi rossi che fanno i soloni e metra pensée, mostra vedere che il problema è un'intervista a un mafioso mezz'attacca come il figlio di Rina. Vabbè. Lorenzo Mazzuccato da Padova: tutto e tutti si possono intervistare, dipende come. Ho dubbi sulla professionalità di Vespa, giornalista di regime, istituzione da pensionare, ognuno con i suoi punti di vista. Il vespismo è il pericolo quanto il renzismo, dice un altro ascoltatore. Claudio da Roma: serve sempre conoscere il nemico, far parlare non significa appoggiare, non possiamo avere paura delle parole. Bruno scrive un altro: già in passato ha creato polveroni per distrarre dai problemi del governo, quasi a legittimare l'illegalità. Si riferisce probabilmente alla questione Casa Monica, vi ricordate? Poi altri messaggi: se serve per riportare nell'alveo della normalità una persona, ci sta anche l'intervista al figlio di Rina. Non credo che sia questo l'obiettivo, comunque, di portarlo nell'alveo della normalità. E comunque Sandro scrive sulla pagina Facebook: tra interviste, libri e conferenze sulla legalità e sulla pace di ex terroristi e assassini vari, mi sembra davvero tutto scontato, personalmente non guardo Porta a Porta da anni. Anselmo dice: io penso che Vespa, intervistando un uomo libero e legittimato ad esercitare la sua professione, contrariamente trovo le polemiche del Presidente del Senato, le polemiche della Bindi, ipocrite e contro la Costituzione della Repubblica Italiana, non capisco dov'è lo scandalo di Bruno Vespa. Povera Italia. Vedete, ognuno con la propria posizione. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero 349-238-6666, giusto gli aggiornamenti per chi vi ha. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie, gli approfondimenti come sempre, adesso cominceremo a scendere nel cuore degli argomenti con i vari ospiti, dopo aver riassunto la giornata come prima, e anche con i vostri messaggi ovviamente. La domanda è sempre quella che vi ho posto all'inizio: cosa ne pensate della scelta della RAI, soprattutto di Bruno Vespa, questa sera Porta a Porta, di intervistare il figlio di Totò Rina, Salvo, che ha scritto un libro? Da una parte c'è Bersani che ha rifiutato di essere presente questa sera Porta a Porta, Rosi Bindi che dice questo è negazionismo di Cosa Nostra, e invece Bruno Vespa che dice per conoscere la mafia e per combatterla bisogna fare anche queste interviste. Dice Roberta, che ringrazio, dice: la professionalità di un giornalista in qualsiasi forma ha la facoltà di intervistare chi gli pare, anche personaggi scomodi e funesti. Parlare prima di vedere le interviste è da ignoranti. Ah no, Sergio, tassista da Milano, pardon, diceva a me, che chiama a me Roberta, mi ero un po' confusa. E poi c'è Alfio di Grazia: voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte e numero 349-238-6666 per i messaggi e WhatsApp. L'intervista a Salvorina, dice Alfio, è inammissibile e inaccettabile. Il racconto di una storia di un boss mafioso in aspetti familiari non interessa all'Italia, perché non assolve e non perdona atti, atteggiamenti e coinvolgimenti in prima persona e come boss nella mafia in tragedie di uccisioni di persone che hanno contrastato il potere mafioso. Porta a Porta non deve andare in onda. Sandro scrive: tra interviste e libri, questo l'avevo già letto. Roberto: certo che avere il canone Rai in bolletta e poi sentire Vespa che un mafioso figlio del boss, beh, a questo punto mi sembra giusto, dato che servizio pubblico all'estero italiano uguale mafioso, buon lavoro. È un po' confuso il senso, però si capisce, di Roberto. Giovanni: direi pure che se fatta una certa e se le idee scarseggiano, Porta a Porta se poi può pure chiudere con buona pace dei nostri portafogli. Alessandro invece dice: Vespa fa soltanto il suo mestiere, intervistare il figlio di Rina è lo scoop che sognano tutti i giornalisti. Così dice Alessandro. Direi che è il caso adesso di ricordarvi, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie più importanti, e poi cominciamo ad affrontare man mano gli argomenti. Scontro al corteo sulla cabina di regia di Bagnoli. Oggi c'era Renzi che ha detto: siamo più forti degli insulti. Ci sono stati lacrimogeni, lanci di pietre, poliziotti feriti, e Renzi ha annunciato che entro 36 mesi ci sarà la bonifica di Bagnoli con 272 milioni di euro di stanziamento. Vespa intervista il figlio di Rina, bufera sulla RAI, l'azienda è col conduttore, Bersani non va Porta a Porta. Attesa per il vertice su Regeni a Roma, inquirenti egiziani sono arrivati nella capitale e Renzi dice: non consentiremo di svicolare. L'ex ministra Guidi domani sarà dai PM di Potenza e il 19 aprile si voterà la mozione di sfiducia al governo. La corruzione in un ASL su tre, questa è la denuncia di Cantone, costa 6 miliardi l'anno. E poi i Panama Papers puntano sulla Cina, è stata perquisita la sede dell'UEFA, conti segreti della nobiltà russa, insomma ce n'è per tutti. Poi capiremo nei prossimi giorni che cosa succederà. C'è anche questo allarme di Frontex, l'agenzia europea, che dice: c'è record di clandestini, allarme terrorismo. Qui Quindi dicevamo, oggi in una Napoli blindata dall'alba per l'arrivo nel capoluogo campano del Presidente del Consiglio Renzi per la cabina di regia, per la, dove bisogna decidere, insomma, dove è stato deciso per la bonifica di Bagnoli, in questa città blindata c'è stata comunque creata una zona rossa, ma ci sono stati comunque cortei di protesta, lacrimogeni, scontri tra manifestanti e poliziotti. E il corteo anti-premier raccolto ha incluso numerose sigle dalla galassia ambientalista alla sinistra di base, studenti, comitati di cittadini di Bagnoli. Lo slogan è stato: Renzi, statta a casa, resta a casa, è napoletano. La protesta è stata contro, in sintesi, contro il commissariamento di Bagnoli e contro lo sblocca Italia. Ma meglio ce lo può raccontare la nostra Laura Viggiano da Napoli. Ciao Laura. Ciao, buonasera. Sì, ora è tutto tranquillo. I manifestanti che in serata erano davanti alla San Carlo, dopo un atto corteo improvvisato alle 8 hanno sciolto la manifestazione. Allora, stamattina, come dicevi, si sono susseguite iniziative di protesta, anche il sit-in del Movimento 5 Stelle, la manifestazione dei lavoratori al Marile Gepin, il corteo appunto dei comitati di Bagnoli Libera, che come slogan ha utilizzato appunto Renzi statta casa, e che ha coagulato diverse realtà da insegnanti, precari, ambientalisti, movimenti napoletani, studenti, disoccupati, antagonisti. Una mattinata che ha registrato nuovamente le critiche anche del sindaco De Magistris, che aveva chiesto ancora una volta di incontrare il premier, ma al di fuori della cabina di regia su Bagnoli, alla quale non ha partecipato dato che la considera illegittima, come peraltro aveva già annunciato. Abbiamo anche un pezzo, insomma, di audio. Sì, di De Magistris. Sentiamo De Magistris cosa spiega e perché non era presente oggi. Fa la sua passerella elettorale, ma la cabina di regia non è un luogo in cui si abbraccia, è un luogo in cui si crea una torbida saldatura tra presunto interesse pubblico e ben individuato interesse privato. Il Presidente del Consiglio non è un rottamatore, come gli ha detto, è il più forte saldatore di interessi assolutamente non trasparenti che si sia visto negli ultimi anni. Quindi noi a Napoli non ci andiamo a sedere in luoghi dove accadono cose che nulla hanno a che fare con l'interesse della città. Quindi un'accusa molto forte, Laura Viggiano, no? Sono in dissidio, dicevamo, da qualche tempo. C'era stato un accordo per la bonifica di Bagnoli, un progetto nel 2014, se non sbaglio, tra Renzi e De Magistris, firmato da tutti e due, e poi poco dopo invece c'è stato, Renzi ha deciso il commissariamento, no? Sì, insomma, questo poi ha scatenato un conflitto istituzionale che continua ancora oggi, insomma, e oggi dopo appunto le accuse di Magistris, tra l'altro Renzi dice che vuole ridare futuro al Mezzogiorno e che il governo è più forte delle minacce e degli insulti, insomma, lo fa in risposta a De Magistris e anche ai manifestanti, ai comitati di Bagnoli. Il corteo di questa mattina si è svolto pacificamente, ma poi nel pomeriggio lo scenario è cambiato. Che ci fosse tensione era ben noto da tempo, in realtà intorno alle questioni di Bagnoli è così da anni, vuoi per la decisione del governo di nominare un commissario, ma anche per l'attesa ventennale e le speranze nutrite in vano per tutto ciò che può comportare la bonifica e la rivalutazione dell'area ex Italsidel, di cui si discute praticamente veramente da circa 20 anni. E su questo, Laura, so che hai intervistato Eddie Sorge di Bagnoli, sì, che Libera, che è uno dei promotori, esatto, no? della manifestazione. Sì, è uno dei promotori della manifestazione, esatto, lo possiamo sentire. Sentiamo. Chi vuole creare momenti di tensione è il governo, sono le dichiarazioni del Presidente Renzi, gli organi di questura che vorrebbero appiattire tutto sui problemi di ordine pubblico. Invece noi oggi in piazza rivendichiamo non solo la contestazione, ma entriamo nel merito della questione. Quello che chiedete è che a Bagnoli non tornino, comunque non restino, società che hanno inquinato, e una bonifica vera. Noi vogliamo fatti e non più chiacchiere, ovviamente. A Bagnoli il governo vuole far rientrare dalla finestra le società che hanno inquinato. Noi a Bagnoli vogliamo lavoro stabile e sicuro, lo si può fare immediatamente con la creazioni di cooperative di disoccupati a gestire la liberazione del litorale, la spiaggia pubblica, il grande parco urbano, il polo tecnologico dell'ambiente, la ristrutturazione di tutta quell'area una volta bonificata, ma bonifiche reali, sotto controllo popolare. Questo insomma uno dei promotori, ci dicevi, no, di questa manifestazione. Sì, che tra l'altro praticamente ha anche mandato un comunicato, dopo l'hanno anche detto a termine della manifestazione, dopo aver comunque appreso quello che aveva detto il presidente Renzi durante il forum tenuto al mattino, per Bagnoli sostanzialmente si prevede una bonifica soprattutto della colmata, che è una delle aree più discusse insomma di tutto il piano Bagnoli, e che quindi sarà poi rispettato il piano regolatore della città, quindi evitando insomma ulteriore insomma cementificazione, cosa alla quale i comitati non credono. Intanto ti dico, siamo ancora sotto la prefettura, Renzi è ancora nel palazzo di governo cittadino. Praticamente sta incontrando De Luca, pare stiano parlando di quello che è stato definito il patto per la Campania. Grazie Laura Viggiano, quindi con il presidente della regione Campania, De Luca. Sì. Grazie. Ciao Laura. Ciao. E oggi quella che presentiamo a Bagnoli è la pulizia di Bagnoli, è la ripulitura, si dice bonifica in termini tecnici, vale 272 milioni di euro, noi li mettiamo. Perché sono i denari che servono a Bagnoli per tornare in mano ai napoletani, ma che servono a Napoli per tornare ad essere capitale del Mezzogiorno e che servono all'Italia per essere una nazione degna di affrontare le questioni ambientali con uno sguardo diverso. Questo ha detto Renzi quindi alla fine di questa cabina di regia di oggi a Napoli, anche se appunto, come diceva prima Laura Viggiano, non ha convinto i manifestanti, non ha convinto evidentemente anche il sindaco De Magistris, col quale abbiamo detto si è consumato questo dissidio da tempo, da circa 2 anni. Ne voglio parlare con Angela Mauro, giornalista dell'Huffington Post Italia. Buonasera Angela. Buonasera a voi. Senti, a questo punto quindi, oggi è stato contestato pesantemente, sentivamo dai manifestanti, in rapporti tesi col sindaco De Magistris, in mezzo col suo governo, è dentro insomma il caso Guidi e Tempa Rossa, domani l'ex ministra Guidi andrà dai magistrati come persona informata dei fatti e si vedrà un po' che cosa succederà, che cosa racconterà, un po' quindi nell'occhio del ciclone per il momento il governo Renzi, e tra l'altro con in vista il 17 aprile il referendum sulle trivellazioni, qualcuno dice sarà un referendum sulle trivellazioni, più sulle trivelle o più su Renzi, ci sono poi diciamo verso giugno le elezioni amministrative. Zanetti, il vice ministro dell'economia, oggi fra l'altro a proposito della annuncio fatto ieri da Renzi di questa ipotesi di estendere gli 80 euro anche alle pensioni minime, ha detto già c'è abbastanza populismo d'opposizione, cerchiamo di non fare populismo di governo perché non ce n'è bisogno. Insomma, ci sono varie situazioni e vari attacchi da vari punti, da varie angolazioni. Angela Mauro, come lo vedi in questo momento il consenso di Renzi, del suo governo? Beh, sì, come dicevi tu, ci sono vari attacchi, diciamo negli ultimi giorni si sono accesi vari focolai di polemica, ne aggiungerei uno, se mi permetti. Oggi a Bruxelles la Commissione europea ha presentato le comunicazioni sulla riforma di Dublino, ma sì, di fatto, ecco, dalle informazioni che arrivano da Bruxelles, la Commissione europea, che già sta rimandando questa riforma di Dublino chiesta, del regolamento di Dublino chiesta a gran voce dall'Italia, la sta rimandando da mesi, la vorrebbe rimandare all'estate, cioè non vogliono toccare nulla prima del referendum britannico sulla Brexit, per evitare di esacerbare gli animi e soprattutto di portare acqua al mulino degli euroscettici. E quindi questo è un danno grosso per l'Italia, perché l'arrivo della primavera e della bella stagione, il timore che riprendano gli sbarchi via mare, soprattutto perché adesso la rotta balcanica è chiusa. Questo per dire che si è aggiunto anche oggi, è passato un po' in sordina, perché come dicevi tu oggi ne sono successe anche oggi di ogni, per cui, ma è un altro problema che si aggiunge, perché tra la Libia in quella situazione lì e il rischio che arrivino anche dall'Albania, le coste italiane sono considerate sotto tiro e a rischio. Il referendum sulle trivelle, su Renzi o sulle trivelle, era passato, diciamo, così silenziosamente, poi questa inchiesta l'ha portato alla ribalta, tanto che, è notizia sempre di oggi, al Senato hanno calendarizzato le mozioni di sfiducia dell'opposizione, sulla quale vorrei dire il governo non teme nulla perché i numeri ci sono, almeno finora, però di fatto l'hanno calendarizzata dopo il referendum. 19 aprile, no? La mozione di sfiducia. Mentre ieri le notizie che arrivavano erano di una intenzione del PD di non opporsi a eventuali decisioni o richieste dell'opposizione di calendarizzarle la prossima settimana, cioè prima del referendum. Evidentemente la decisione presa oggi segnala un timore o comunque un tentativo di cercare di spegnere i riflettori su questa vicenda, su questa inchiesta del petrolio, che ha portato, diciamo, un po' di scompiglio, anche perché è la prima inchiesta, chiaramente lo diciamo con tutto il garantismo possibile, che getta un'ombra sull'operato del governo Renzi in quanto governo Renzi, cioè non il governo precedente. Domani poi vedremo la Guidi, certo, che cosa dirà ai magistrati di Potenza. Domani sarà una giornata calda. Molto calda, anche perché qualcuno, naturalmente sono illazioni, ipotesi, così, che lasciano il tempo che trovano, azzarda che potrebbe entrare da persona informata sui fatti e uscire da inquisita. Questo lo si vedrà. Io, per quello che ho visto, cioè, ho notato innanzitutto un cambio, come abbiamo notato tutti penso questa settimana, un cambio di atteggiamento da parte sua nei confronti del padre di suo figlio, cioè dell'indagato Gianluca Gemelli. Lei è passata da descriverlo come il mio compagno, non gli nascondo nulla, ho parlato di un emendamento che era già uscito sui giornali, non ho detto nulla di segreto, la lettera a Corriere della Sera del 5 aprile, ad un atteggiamento opposto, cioè in cui l'ha scaricato, perché sono venute fuori evidentemente altre intercettazioni che mettono in luce il carattere strumentale del rapporto da parte di lui nei confronti di lei. Quindi lei a quel punto ha detto tutto e ha preso le distanze da Gemelli. Ricordo anche che ormai lei è un ex ministro e io non so se, come tutti, non sappiamo se uscirà da indagata dall'interrogatorio di domani, però il fatto che vada, lei si chiede domani davanti ai PM di Potenza come Federica Guidi e basta, cioè ha rotto, diciamo, ha cercato di rompere il sodalizio che veniva fuori tra lei e il padre di suo figlio nella prima telefonata, quella sull'emendamento incriminato, diciamo così, dall'inchiesta. E ha rotto anche col governo, perché nel giro di poche ore si è dimessa. Domani chiarirà punto per punto e da quello che dirà il PM si capirà, forse, insomma, si capirà molto, dovrà difendersi. Quindi sarà interessante, insomma, sapere domani che cosa verrà fuori da questa audizione, chiamiamola così, da parte dei magistrati. Angela Mauro dell'Huffington Post, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, buon Angela, lavoro a voi. Ciao. Grazie a te. Ancora i vostri messaggi, tantissimi, sulla scelta di Vespa di intervistare questa sera il figlio di Totò Riina. Marco da Viterbo al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi per i WhatsApp, dice: alla fine Riina Junior promuoverà il suo libro da Vespa, per me è l'ennesima marchetta di una TV che non ha più argomenti, viva la radio. Diciamo, siamo di parte, ma siamo contenti che tu dica così, Marco. Poi c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte. Andrea da Verona dice: Vespa può intervistare chi vuole, ognuno è libero di guardarlo, ma la promozione di un libro con i miei soldi lo trovo censurabile, prescindere dal cognome dell'intervistato. Adriano dice: Bersani non va a Porta a Porta? Si vede che non ha nulla da dire, perché Bersani si è rifiutato a questo punto di andare a Porta a Porta. Max: Oriana Fallaci intervistò schieri di terroristi e dittatori sanguinari con l'implauso del mondo intero. Certo, ufficialmente non erano ergastolani e Vespa non è Fallaci, però il principio è lo stesso. Vedete, tanti vostri pareri, continuate, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero 349-238-6666. Tra poco parleremo dei possibili sviluppi dell'inchiesta sul petrolio e anche della ex ministra Guidi, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve li ricordo, Roberta Giordano sempre con voi, continua ad arrivare tantissimi vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso il 349-238-6666 che se ancora non lo sapete è il numero sia per i messaggi che per i WhatsApp. A proposito della questione che vi ho sottoposto questa sera, Bruno Vespa ha deciso di intervistare questa sera Porta a Porta il figlio di Torina, del boss mafioso Totorina, si chiama Salvo, di intervistarlo perché ha scritto un libro, bufera sulla RAI, proteste del PD, del Movimento 5 Stelle, la Presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi che ha detto questo è negazionismo di Cosa Nostra, mentre Bruno Vespa dice per combattere la mafia bisogna conoscerla, servono anche queste interviste. Continuano i vostri pareri a questo proposito della frase di Vespa. Mario da Salerno dice andatelo a spiegare a uno scugnizzo dei quartieri spagnoli, si rischia l'emulazione. Questa è ancora quindi una lettura ancora diversa di un ascoltatore che dice si rischia che i ragazzini, i bambinelli, adesso sapete che ci sono anche i camorristi un po' di paranza, i ragazzini che vanno a fare i piccoli boss in giro con i motorini a sparare. Poi Antonello dice Vespa sa benissimo che Rina Junior non parlerà di mafia ma della sua bella e serena famiglia, fa un po' dell'ironia. Anna scrive sono contro l'intervista del figlio di Rina, sono anche contro la narrazione della mafia nei film, nelle serie televisive, nella letteratura. Il grande scrittore siciliano Camilleri in un'intervista ha detto che lui non nomina mai la mafia nei suoi libri per non mitizzarla, per non renderla suadente. Ora però, mentre voi continuate con i vostri messaggi, vi ricordo le notizie più importanti. Bagnoli, Renzi a Napoli per la cabina di regia, De Magistris non va, scontri e feriti al corteo di protesta contro il Presidente del Consiglio che assicura bonifica in 36 mesi con 272 milioni di euro. Vespa intervista il figlio di Rina, bufera sulla RAI, azienda col conduttore, Bindi accusa e negazionismo di Cosa Nostra, Bersani non va a Porta a Porta. L'omicidio di Giulio Regeni, la delegazione di inquirenti egiziani che domani si incontrerà con quelli italiani è arrivata in serata a Roma. L'inchiesta sul petrolio, domani Federica Guidi sarà ascoltata dai magistrati, ne parleremo a breve. Terrorismo allarme di Frontex, record di clandestini alle frontiere. Si scopre che uno dei due terroristi degli attentati di Bruxelles ha lavorato per due mesi al Parlamento europeo in una cooperativa di pulizie. La denuncia di Cantone, la corruzione colpisce un ASL su tre, costa 6 miliardi l'anno. Panama Papers, la polizia svizzera nella sede dell'UEFA, banche, via libera del Senato, il decreto e legge, il sisma dell'Aquila, settimo anniversario, la Camera ha osservato un minuto di silenzio. E in Francia passa la legge contro i clienti delle prostitute, multe sino a 3.500 euro. Avevamo prima accennato alle varie grane che gravano in questo momento sul governo Renzi, dicevamo naturalmente tutto è scoppiato in particolare da quello che è successo con l'inchiesta sul petrolio della Basilicata e quindi con le successive dimissioni dell'ex ministra Guidi che domani, dicevamo, si presenterà ai magistrati per essere ascoltata come persona informata sui fatti. Saluto la nostra Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao a te e al nostro ascoltatore. Lei ha detto di essere serena, si sta riguardando alcuni atti per fornire con precisione ogni chiarimento ai magistrati, adesso ha detto sono pronta all'incontro con i PM. Si diceva prima qualcuno ventila che possa entrare da persona informata sui fatti e poi magari uscirne inquisita, però ovviamente tutto si capirà domani. Guarda, fino adesso i magistrati hanno ritenuto che l'operato dell'ex ministra Federica Guidi sia avuto un peso di non opportunità politica che ha portato alle sue dimissioni, non abbia presentato elementi di illecito penale, per cui lei non è indagata e quindi viene sentita come persona informata sui fatti. Di sicuro la sua posizione è una posizione delicata rispetto ad un'inchiesta che è delicata nei confronti, per quello che dirà nei confronti del suo compagno da cui sta prendendo le distanze nelle ultime ore, che invece è indagato ed è uno dei protagonisti di questa inchiesta, un compagno, Gianluca Gemelli, per cui la procura torna a chiedere l'arresto dopo il primo no del GIP, e il suo interrogatorio sarà delicato anche rispetto alla condotta del governo, perché uno dei temi centrali di questo interrogatorio è quello quello che lei possa aver fatto in base a quelle che la procura ritiene possano essere state le pressioni di un comitato d'affari, lo definiscono così. Cioè la questione è: perché Federica Guidi al telefono col compagno lamentava di sentirsi utilizzata da lui? Perché le persone con cui lui faceva affari, che sono appunto tutte persone legate al giro del mondo dei petrolieri, poi bussavano alla sua porta? Cioè perché in qualche modo veniva utilizzato il suo ruolo istituzionale all'interno del governo? Ecco, sta in queste domande la delicatezza dell'interrogatorio di domani di Federica Guidi, e sta soprattutto nel cercare di capire alcuni tasselli importanti a metà tra i rapporti di affari e quello che il compagno faceva o forse anche millantava, e quello che poi di conseguenza avveniva all'interno del Consiglio dei Ministri, all'interno della compagine di governo. Cioè si incroceranno le vicende personali e diciamo economiche del suo compagno con quelle che sono state le decisioni del governo, a cominciare dal famoso e contestato emendamento su Tempa Rossa, reintrodotto nella legge di stabilità, ma poi anche nell'ultima versione anche modificato, e anche questo è un punto da chiarire nell'interrogatorio. Raffaella Calandra, quindi a questo punto ci aggiorniamo domani. A domani. Grazie, ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao. Prima della viabilità, scrive Diaz, Vespa non ha imparato nulla da Gomorra, non può non aver colto il rischio di emulazione per tante teste vuote, in malafede per forza, dove sta la deontologia professionale, un giornalista deve informare, non prostituire fatti e persone per propria visibilità. Questa è l'opinione di Diaz, continuate tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, Roberta Giordano con voi. Vi ricordo velocemente le notizie più importanti, prima di passare ad altri temi. Scontro al corteo su Bagnoli a Napoli, Renzi era lì per la cabina di regia per la riqualificazione di Bagnoli, dice noi siamo più forti degli insulti, ci sono stati lanci di pietre, lacrimogeni, a Napoli diversi poliziotti feriti, e Renzi ha annunciato che ci sarà la bonifica di Bagnoli in 36 mesi con uno stanziamento di 272 milioni di euro. Vespa intervista questa sera il figlio di Irina Bufera sulla Rai, l'azienda si schiera con il conduttore, Bersani non va a porta, attesa per il vertice su Regeni. A Roma intanto sono arrivati gli inquirenti egiziani che domani incontreranno quelli italiani. La ministra Guidi, ne abbiamo appena parlato, l'ex ministra scusate, domani sarà dai PM di Potenza come persona informata sui fatti, e intanto si apprende che la mozione di sfiducia contro il governo si voterà il 19 aprile. La corruzione, questo è l'allarme di Cantone, capo dell'anticorruzione, dice la corruzione è in una ASL su tre, costa 6 miliardi l'anno. E poi record di clandestini alle frontiere, allarme terrorismo, questo è l'allarme dell'agenzia europea Frontex. Europa 24 notte. E proprio di Europa, l'attuale sistema d'asilo europeo non funziona e va riformato, ne è convinta la Commissione europea che ha presentato oggi una comunicazione, ne parlavamo prima con la giornalista dell'Huffington Post, per rivedere il regolamento di Dublino, quello in base al quale la responsabilità della vasta maggioranza dei richiedenti asilo viene scaricata su un numero limitato di paesi, cioè dove uno arriva e richiede asilo. Due le opzioni: una revisione radicale con introduzione di un meccanismo di ripartizione automatico gestito a livello europeo, oppure un mantenimento dell'attuale sistema con l'aggiunta di un correttivo in caso di emergenza. Su queste due opzioni i paesi dovranno discutere nei prossimi mesi. Per Patrizia Toia, capo delegazione del PD al Parlamento europeo, quello di oggi è un passo in avanti troppo timido. Sentiamola al microfono di Alessandra Schepisi. Sì, sicuramente è un primo passo. Il problema che noi sottolineiamo è che qui non è più il tempo dei primi passi, qui bisogna fare passi grandi e giusti e necessari, che si rendono appunto indispensabili. Quindi se giudicassimo con l'ottica tradizionale del trend, diciamo, delle decisioni europee, dovremmo dire sì, è un primo passo, accontentiamoci, poi verrà il secondo, verrà il terzo. Ma in questo momento devo dire che in me, e penso anche nel mio gruppo, prevale una valutazione che dice che i tempi sono così complicati che occorrerebbero dei passi decisi, capisce? Perché questo è un primo passo, nel senso che si porta sul tavolo dei governi una serie di ipotesi che in qualche modo superano l'attuale Dublino, che a detta di tutti, no, è sotto gli occhi di tutti, che è insufficiente. Ma cosa fa l'Unione Europea? Riconosce che questo sistema di asilo non funziona, riconosce che la crisi dell'immigrazione è destinata a durare a lungo termine, quindi premesse giuste, e però la riforma per rispondere a queste due premesse non è sufficiente. Tra l'altro l'estate è alle porte, quindi insomma adesso ci saranno anche dei flussi più massicci di migranti. Io non so cosa debba succedere, perché ci si rende conto che questi tempi sono troppo lenti, i tempi di reazione rispetto alla gravità degli eventi e anche ai tempi degli eventi, perché appunto i flussi che si sono verificati e quelli che si potranno ancora verificare, al di là diciamo dell'applicazione dell'accordo con la Turchia, che comunque a sua volta è molto problematico, i flussi presumibilmente con l'arrivo della bella stagione continueranno, perché quando la gente scappa, se non risolvi le ragioni per cui scappa, continuerà a scappare. Ecco perché io dico, quando gli eventi sono così gravi, risposte tradizionali e lente non sono all'altezza della situazione. Quale risposte darà allora il suo gruppo su questo? Il mio gruppo è determinato a reagire in vari modi. La settimana prossima approveremo in Parlamento il rapporto Chienggi sull'approccio olistico al tema dell'immigrazione, che fa tutto un quadro, diciamo una cornice. Presenteremo un'interrogazione per conoscere nel dettaglio l'attuazione dell'accordo con la Turchia, che lascia molti punti scoperti e riceve molte critiche dalle agenzie internazionali, eccetera. E penso che presenteremo anche altre proposte, faremo altre iniziative per chiedere alla Commissione piani più, diciamo, efficaci per affrontare la situazione in Grecia, ovvero affiancamento della Grecia, che non può essere lasciata sola. E terzo, di nuovo, ribadiremo con insistenza questa richiesta di una vera politica dell'asilo. E spero che con questa azione che il mio gruppo politico continuerà a fare in modo pressante, si possa ottenere qualche cosa di più di queste timide proposte di oggi. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Proprio dell'intervista controversa di Vespa, scrive Andrea da Bologna: questa è la stampa bellezza e tu non ci puoi far niente, citando il film Quarto potere di Orson Welles. Ma proprio di bellezza ci colleghiamo con Enrico Pagliarini, poi mi paghi da bere Enrico, almeno un chinotto. Buonasera, grazie per l'apprezzamento. Conduttore di 2024, tutti i venerdì alle 22, quindi dopo Effetto Notte. Senti, c'è una novità che riguarda WhatsApp, il sistema di messaggistica istantanea che è ormai diffusissimo in tutto il mondo. In cosa consiste? Allora, WhatsApp ha annunciato che da oggi, per tutti quelli che hanno l'applicazione aggiornata all'ultima versione, le chiamate, quindi anche le chiamate oltre che i messaggi... Perché si possono fare anche le telefonate. Si possono fare anche delle telefonate oltre ai messaggi classici della chat, saranno cifrate utilizzando la crittografia. Questo che cosa significa? Significa che nessuno, ma poi spieghiamo cosa vuol dire in realtà nessuno, potrà intercettarle, decifrarle. Nessuno significa che nemmeno WhatsApp, nel caso le forze dell'ordine o un'autorità volesse entrare in una chiamata oppure in uno scambio di chat, se questa autorità chiedesse a WhatsApp di andare a vedere che cosa due persone si sono dette, sia in voce sia in messaggio, non sarebbe in grado, non potrebbe farlo. Senti, nemmeno WhatsApp, perché questa crittografia viene definita end to end, quindi dal punto di partenza, quindi quando io parlo oppure faccio una chat, fino al punto di destinazione del mio interlocutore. Tra l'altro questo avviene proprio nel momento della guerra tra Apple e FBI, no? Per l'accesso alle informazioni contenute sugli iPhone per le indagini sugli atti terroristici. Sì, questo avviene in un momento di grande dibattito. Il dibattito qual è? Fino a quanto le nostre comunicazioni, le comunicazioni di tutti noi devono essere tutelate in termini di privacy di fronte a una richiesta dell'autorità di andare a vedere, a scoprire quello che o ci siamo detti o ci siamo scritti, se c'è un problema di sicurezza nazionale. Quelli che stanno dalla parte delle forze dell'ordine dicono: ad un certo punto, quando c'è un problema di sicurezza nazionale di fronte al terrorismo, le autorità dovrebbero essere in grado di andare a vedere e andare a scoprire quello che due persone si sono dette, oppure semplicemente fare un'intercettazione, quelle a cui noi siamo abituati. Ecco, in questo caso pensate che se due persone, cioè se il ministro Guidi e il suo compagno non avessero parlato al telefono, ma in una situazione in cui ma per WhatsApp, questa telefonata sarebbe inintercettabile, cioè sarebbe impossibile intercettarla. Pensate. Quindi sicuramente qui si apre un fronte molto vasto, perché da oggi in poi tutti quelli che utilizzeranno WhatsApp non potranno essere intercettati. Enrico, quindi possiamo scambiarci di tutto, io e te. Grazie Enrico Pagliarini, ce lo ritroviamo 2024, poi buona venerdì. Serata. Ciao Enrico, e noi ci ritroviamo alle 22.